Oh, siete stati meravigliosi. Non so come ringraziarvi abbastanza. Senza il pozzo, la locanda sarebbe rimasta senza acqua e senza clienti. Ma grazie a voi, ora tutto è tornato a funzionare. Per mostrarvi la mia gratitudine, vi offro un pranzo caldo e abbondante, accompagnato da una brocca del nostro miglior sidro. Sedetevi, rilassatevi e lasciate che vi serviamo come si deve. Bravissimi avventurieri! Avete sistemato l'incantesimo e ora il pozzo funziona di nuovo. Potete finalmente godervi un ottimo pranzo offerto dalla casa.